Dopo 20 anni di regime e dopo 5 di guerra, eravamo ridiventati uomini con un volto solo e un'anima sola. Eravamo di nuovo completamente noi stessi. Ci sentivamo di nuovo uomini civili. Quel giorno, amici, abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all'uomo sia dato di provare, il miracolo della libertà. Così diceva Norberto Bobbio il 25 aprile del 1957 in Piazza San Carlo, ai cittadini torinesi e agli uomini e donne della Resistenza, ricordando le ragioni della festa, ma soprattutto evocando un'esperienza vissuta, il ritorno all'umanità, individuale e collettiva, a un'umanità liberamente vissuta, da parte di un popolo che quell'umanità l'aveva perduta, in 20 anni di servitù e conformismo, perversione e ipocrisia, adesione fanatica o silenzio complice, nell'accettazione più o meno partecipata di un regime che della disumanità, del culto e della pratica dell'inumano, aveva invece fatto il proprio emblema. Ecco, lì sta probabilmente la ragione più forte per continuare a replicare quella gran festa d'aprile, per dirla con Franco Antonicelli, che i nostri padri e nonni vissero in prima persona 74 anni fa, in quel ridiventare uomini. Certo, nel giorno della liberazione ci sono molte vittorie da celebrare. C'è una vittoria militare su un nemico che, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, sembrava imbattibile e che invece, sotto i colpi congiunti degli eserciti alleati della resistenza europea, è alla fine crollato. C'è una vittoria politica, un segno di riscatto per un paese, l'Italia, che era finito in fondo ad un abisso, dopo aver dato i natali a un regime come quello fascista, diffusosi come un cancro in Europa. Un paese giunto alla fine di quella parabola discendente, distrutto materialmente e squalificato politicamente, sconfitto e disprezzato e infine rimesso all'onor del mondo, per così dire, dal sacrificio di quei 200.000 combattenti per la libertà che si sacrificarono per rischettare gli errori e le cadute degli altri milioni di loro compatrioti. E c'è, fondamentale, una vittoria morale espressa nella parola scelta, nel fatto che in quel punto morto della storia che fu l'8 settembre del 1943 ci furono uomini e donne che scelsero, senza ordini superiori né obblighi formali, di mettere in gioco le proprie vite in un atto costituente di disobbedienza di massa in nome di valori. Ma c'è nella resistenza e nel suo esito con la liberazione una vittoria che le sintetizza tutte e dà loro il senso storico che nasce dall'esperienza vissuta, ed è la vittoria dell'umano sull'inumano, l'affermazione di un umanesimo testimoniato col sacrificio personale sulla disumanizzazione ostentata da regimi ed eserciti che marciavano sotto le bandiere della distruzione dell'umano. Di tutte le cose lette o udite che mi sono piaciute, quasi nessuna in me si è impressa più profondamente e si è radicata più tenacemente o ritorna più spesso alla memoria della sentenza di Eraclito. Tutte le cose che avvengono sono il risultato di una lotta. Così è infatti, e che sia all'incirca così, l'universo intero lo prova. Le stelle fisse si oppongono al firmamento che gira, gli elementi contrari sono in colluttazione fra di loro, la terra trema, i mari sono agitati, l'aria vibra, il fuoco deflagra, una guerra senza fine combattono i venti, le stagioni combattono le stagioni, ogni cosa combatte contro se stessa e tutte contro noi uomini. La primavera è umida, l'estate è secca, l'autunno non è rigido, l'inverno è aspro e quello che chiamiamo mutamento è una battaglia. Dunque, gli stessi elementi sui quali stiamo, che ci circondano riscaldandoci ed alimentandoci, che ci lusingano con tante attrattive, quanto siano orrendi, se cominciano ad adirarsi, lo indicano i terremoti e i concitatissimi turbini, lo indicano i naufragi e gli incendi che infuriano sia in cielo sia sulla terra. Che altro è, se non lotta, l'insulto della grandine, la forza delle piogge, il rumore dei tuoni, l'impeto del fulmine, la furia delle tempeste, il calore, il fragore del mare, lo strepito dei torrenti, la corsa dei fiumi, l'andare e il venire e il congiungersi delle nuvole? Il mare stesso, oltre alla libera e violenta forza dei venti, oltre ai misteriosi rigonfiamenti dei flutti che si succedono con intervalli incerti, ha i suoi periodici flussi e riflussi in molti luoghi e più visibilmente al tramonto. Questo fenomeno, mentre si cerca di capire la causa sconosciuta di tale movimento evidente, ha suscitato nelle scuole dei filosofi una lite che non è inferiore alla lite dei flutti che avviene nel mare stesso. Che dire del fatto che non c'è animale che non abbia la sua guerra da combattere? I pesci, le bestie feroci, gli uccelli, i serpenti, gli uomini, una specie molesta l'altra, a nessuna di esse è concessa la pace. La storia dei fratelli Cervi è la storia di un'esemplare famiglia italiana. Famiglia contadina, lettori appassionati, nati mezzadri divennero affittuari, nati patriarcali due generazioni prima, si organizzarono in case del popolo e sindacati, prendendo le decisioni in forma collettiva. Compresa l'adesione alla resistenza, sette fratelli su sette fratelli e un papà e una mamma che in casa dirigeva lavori, spese e idee. I sette fratelli Cervi leggevano libri sull'apicoltura, sulla coltivazione del frumento e la crescita dell'uva. Leggevano anche per piacere. La loro biblioteca casalinga aumentava e ne fecero una pubblica, circolante e gratuita, che partiva da Marx, abbracciava Gramsci, i Volantini e l'Unità, che spiegavano e commentavano a voce nelle case dei più poveri. Nel 1939 i fratelli Cervi comprarono un trattore. Furono tra i primissimi, era un mezzo innovativo. Nessuno aveva un trattore. Loro lo comprarono e lo prestarono e al momento dell'acquisto comprarono anche un mappamondo e ce lo misero sopra. Casa Cervi fu un luogo di dissenso contro il fascismo e la guerra, dall'inizio stesso della guerra. Poi, al tempo della resistenza, formarono la banda Cervi. Al cascinale della famiglia Cervi troveranno rifugio antifascisti, partigiani feriti, prigionieri stranieri scappati dai nazifascisti. E fu l'accoglienza del cascinale Cervi alla vita, ai feriti e ai resistenti. Furono tutti quei semi sparsi che non permisero ai fascisti di accontentarsi della fucilazione dei sette fratelli e li spinsero anche a bruciare la loro casa. Le parole che non hanno bisogno di aggettivi qualificativi, però, restano quelle del papà Alcide Cervi. Mi hanno sempre detto, tu sei una quercia che ha cresciuto sette rami e quelli sono stati falciati e la quercia non è morta. La figura è bella e qualche volta piango, ma guardate il seme perché la quercia morirà e non sarà buona nemmeno per il fuoco. Se volete capire la mia famiglia, guardate il seme. Il nostro seme è l'ideale nella testa dell'uomo. Per questo quando penso alla parola fratello mi vengono in mente i sette fratelli Cervi. Per questo quando penso a una storia da raccontare, penso alla storia della famiglia Cervi, la storia di chi stava bene ma scelse di lottare, mettendosi fra il fango e la giustizia. Perché non si sta mai davvero bene se non stanno bene anche gli altri. Dedicato ai corsari.